Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti. Inform visitors that the museum will close in 5 minutes. Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi. Non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda Bambi, siamo già grandi. Ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa in un alfa coi raschi. Passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti. Siamo truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi. Restiamo qui, policy, senza J. Harvey. Troppo tardi per azioni di massa corali. Passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. Sollevare stendardi e combatterci come franchi coi longobardi. Se il paese va in default solo cazzi, una vita a ologrammi. Blackout, è troppo tardi per trovare lavoro, è tardi per diventare buono, è tardi per prenotare un volo, è tardi per cambiare città, è tardi per finire l'università, è tardi per i traguardi. È troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, ma non mi fermerò. But I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop. Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi, ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccia, al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi. Troppo grandi per camminare a piedi scalzi. Hai un gruppo metal? Troppo ganzi, ma troppo tardi per fare le rockstar. Morale come l'Android e Marvin. Ovunque guardi, trovi più bersagli che tardi. Qui ricordi di quando tiravi tardi. Ora è coprifuoco come d'attacchi dinami tardi. Troppo tardi per comprare un Harley. Tempo e denaro sono concetti diversi. Non so come unarli. Scrivo un disco sull'arte con il rischio di imputtanarmi. Ora che posso farci? È troppo tardi per fare chiasso, è tardi per fare un puzzle, è tardi per tatuarmi Che Guevara sul braccio, è tardi per ascoltare Vivaldi, è tardi per educare il mio rock. Ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, ma non mi fermerò. It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. I won't stop. It's getting late but the game ain't over. Operates up, pass the mic over, so I can take the world off my shoulders and put it in a song and call it rock and roll. My voice is my weapon, it's my choice to use it. Lacing up the track, a Franti exclusive. Rocking in the jungle out here in Bali, but you can feel the bass at my home in Cali. And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music, so the people unite. But while I'm gone, you can call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet, 'cause I was born a rebel and I ain't stopped yet, yo. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop. È tardi. You better wake up. You better wake up. È tardi. I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music, so the people unite. But when I'm gone, you can't call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet, 'cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. 'Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. 'Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel and I ain't stopped yet.